Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Sargante del Traghettatore, ben trovati. Cominciamo con darvi un SMS solidale. C'è tanto bisogno di risorse per il no profit di questi tempi, più che mai ve ne proponiamo uno che riguarda i bambini in ospedale, quindi Fondazione Teodora. Vi chiediamo di digitare un numero per poter raccogliere questi fondi. Il numero è 45502, sarà possibile farlo fino a domani compreso. Lo scopo di questa raccolta di fondi è garantire la visita dei dottor Sogni, che sono clown professionisti che sono formati per, come dire, intrattenere e alleviare la sofferenza dei 10.000 bambini che sono ricoverati nei reparti oncologici e cardiologici d'Italia. Da un bisogno all'altro, forse meno drammatico ma sicuramente altrettanto pesante e importante in questo momento nel nostro paese, il lavoro. Back to Work per le piccole e medie imprese è un progetto online che ha come obiettivo quello di mettere insieme domande e offerte, di collegare imprese, professionisti e manager che hanno bisogno di lavorare o aziende che hanno bisogno di chi porta competenze. Carlo Bassi è il fondatore di Back to Work. Buongiorno Carlo Bassi. Buongiorno a voi. È sicuramente, come dire, il momento migliore per poter lanciare una proposta del genere, online peraltro, quindi immaginiamo che ci sia una relativa facilità di contatto. Come è organizzata Back to Work? Molto semplice, su www.backtowork.it è un portale dove aziende, quindi piccoli imprenditori, i classici imprenditori artigianali o famiglie artigianali o comunque la piccola media impresa, può descrivere la propria attività, le proprie caratteristiche, la propria scheda aziendale e anche le proprie necessità, ovviamente in modo riservato, non è pubblico, è solo per poi i professionisti che lavorano al Back to Work, e contemporaneamente la stessa cosa lo possono fare tutti quei lavoratori, diciamo maturi o anche non maturi, ma comunque tutti quei lavoratori specializzati che sono rimasti o rimangono o vengono espulsi dal mondo del lavoro e quindi hanno una straordinaria competenza nei vari campi, e Back to Work invita gli uni gli altri a cercare di sposarsi, creando Back to Work direttamente con i propri professionisti, l'opportunità di incontro e di investimento, perché alla base del Back to Work c'è anche la volontà che un professionista espulso dal lavoro a 50 anni possa pensare di costruirsi un proprio futuro investendo magari la propria liquidazione, qualche risparmio, ma anche semplicemente una parte del valore del proprio lavoro in aziende che hanno bisogno sia di queste professionalità che di risorse. Se non abbiamo capito male, il professionista si iscrive a Back to Work, entra a far parte di questa, mette organizzazione, mette il proprio curriculum, le proprie caratteristiche e aspetta che noi si possa fare proprio un'analisi delle competenze del professionista e delle necessità e richieste da parte delle imprese, e li mette in contatto e cerca di creare un'occasione per costruirsi un'opportunità di lavoro. È un portale gratuito sia per le imprese, immaginiamo, che per i professionisti, quindi è un'iniziativa, come si dice? Allora, è un portale gratuito che ha una remunerazione molto bassa, parliamo di un fee percentuale che serve onestamente a dare la possibilità di continuare a vivere solo nel momento in cui il rapporto si è finalizzato, ma parliamo di un percentuale del 5% del valore dell'investimento che viene valorizzato nella trattativa, ma stiamo parlando di cose che servono a mantenere in vita il portale, niente di più. Parte in tutto il paese? Come è la struttura? Il portale ha accesso in tutto il paese, è anche un modo per creare anche da parte di investitori tradizionali, ci sono piccoli private equity e quant'altro, interesse verso la piccola e media impresa che ahimè oramai è strozzata dal fatto che non c'è nessuno che le fa credito e che magari muoiono, come ne stanno morendo, sembra 30 al giorno, quindi numeri pazzeschi, perché magari gli mancano i 200-300 mila euro per continuare l'attività o per fare i prodotti o rispondere alle commesse. Bene, grazie Carlo Bassi, buon lavoro. Grazie a voi. Continuiamo, restiamo nel campo del lavoro, un lavoro un po' particolare, parliamo di un'iniziativa di Fondazione Vodafone che offre ai clienti e dipendenti di questa azienda di svolgere una esperienza lavorativa presso enti no profit per un periodo di 3 mesi. Le candidature si possono avanzare fino al 5 febbraio, il motivo per cui Vodafone ha aperto questo fronte è perché paga lo stipendio per questi 3 mesi ai suoi collaboratori dipendenti che ne faranno richiesta. Vi lasciamo ricordandovi che domani chiude la 7ª edizione di Clima House, che è la fiera internazionale per l'efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia a Bolzano. Grazie per averci seguito, vi ricordo l'indirizzo ferribot@24.it per le vostre segnalazioni e su Facebook potete cliccare mi piace su ferribot-radio24. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Paolo Corleoni in regia, a presto.